Rock di B-Radio. Sono le 23, quasi le 23:30. Io non finirei mai, andrei avanti oltre la mezzanotte, però abbiamo determinati tempi tecnici, ma abbiamo altre cose da dire, molte altre cose da dire. Qualcuno mi vuole parlare dei giornali musicali dell'epoca che erano molto importanti? Cosa vuol dire avere una copertina su Ciao Big, per esempio? Dunque, allora, il primo giornale in assoluto di musica è stato Tutta Musica. Sì, dimmi. Che era addirittura solo in bianco e nero. Poi sono usciti altri giornali. C'è stato Ciao Amici, che era molto molto importante. Ciao Amici. Cioè, cosa vuol dire essere citati da un articolo di Ciao Amici, per esempio? Era fondamentale. Avere il servizio su quei giornali era fondamentale. Era un melody maker italiano, praticamente. Era potente. Ciao Amici, Big e Giovani. Sì. Noi abbiamo avuto anche la copertina su Giovani, per esempio. Sì. Abbiamo avuto il calendario 1966 su Ciao Amici. Che noi, Ciao Amici, c'eravamo noi, l'Equipe 84, i Rocks, chiaramente. E poi c'erano, non so, Mina, Celentano. Quindi eravate Morandi, molto alti. 1966, sì, è stato perfetto. l'anno migliore, direi, nostro. Esattamente. E essere su questi giornali era una cosa favolosa, insomma, tu entravi nelle edicole. Adesso parliamo dal punto di vista commerciale. Uscire sui giornali, cosa vuol dire dal punto di vista di vendite? Aumentavano, sì, anche perché parliamoci chiaro, le classifiche erano pilotate. Non c'era hit parade ancora. C'era una hit parade, ma non quella di pilotatissima. Era pilotatissima. Ah, pilotatissima. Aveva ragione Celentano a dirlo. Ma aveva ragione Celentano sicuramente, perché c'era disco che pagavano fior di quattrini per andare in hit parade con cantanti dell'epoca, quelli all'italiana, diciamo, che non vedevano dischi assolutamente, invece quello è il bello. Adesso c'è lo spazio dedicato a te, mi pare. Allora, il primo brano che canterò è Stasera sono solo. Stasera sono solo è stato un grande successo a Bandiera Gialla, cioè è stabilito un record. 8 settimane a Bandiera Gialla, trasmissione di Arbore e Buoncompagni, perché con Gino Generale sa cos'è la Bandiera Gialla. Era fondamentale. Però Arbore e Buoncompagni sono nati con Bandiera Gialla e noi siamo stati lanciati a livello nazionale con questo brano, che è stato il nostro terzo disco. Stasera sono solo. Bene. Tutto dal vivo, niente di registrato.